Pizza. Oh no no no no no. Oh no no no no no. Il sole splende, invito per te. Il mio cuore scende, passione, amore. E ancora non capisco cosa non va. Ti guardo nel buio, supernova. L'universo ti non guarda che c'è. Certo che in questo mondo niente mi ama. Nel buio sono perso senza trama. Questa donna è solo un fiore per me. Yeah, vivevo al buio ma senza dolore. Amavo il sole ma non avevo cuore. Guardavo il cielo ma non avevo ardore. Nella mia vita fanculo l'amore. Eppure tu sei arrivata così. Piccola pazzoide, dimmi perché ridi. Nah, tu mi conosci che sono fatto così. Cattivo come pochi con le mie nevrosi. A me i soldi e questo è il quanto. Non ho Dio, il maiale io mangio. Io non ho scuse, io sono pazzo. Di quello che faccio quando bestemmio cazzo. Materialista, poco sensibile se. Imperialista, io vivo come un re se. E allora dimmi che cosa che c'è. Perché tu vuoi me, illumini proprio e ancora me. Ancora non capisco cosa non va. Ti guardo nel buio, supernova. L'universo qui non guarda che c'è. Certo che in questo mondo niente mi ama. Nel buio sono perso senza trama. Questa donna solo un fiore per me. Il sole splende, invito per te. Il mio cuore scende, passione, amore. Il sole splende, invito per te. Il mio cuore scende, passione, amore. Passione, amore. Dico la stupida, tu vivi come un angelo. Capolavoro, il tuo viso Michelangelo. Quando sei triste sorridi come un pargolo. Poi di nascosto tu piangi dietro un angolo. Penso al denaro, tu senza sei felice. Voglio diamanti, tu mi parli di Nietzsche. Filosofia di strada, ma cosa dice? Io non ti capisco, io non ti capisco. Nella mia vita avevo solo dolore. Imparato ad odiare, sapevo cosa fare. Arrivi tu che cambi tutto il mio mondo. Imparato a volare, vivere normale. Se l'ambizione l'animo devasta, al vincitore il premio non basta. Ho imparato che il male non muore. Amare piccole cose il valore di un fiore. Non capisco cosa non va. Ti guardo nel buio, supernova.